convivere con gli altri, sono bravo a farlo, ma dentro c'è qualcosa che ti rode come un tarlo. Che strana la vita, mille promesse scadute, una mantenuta, sentieri e pensieri su ogni strada vissuta e gioia alla rinfusa. Okay. Ma non ho mai guardato fuori dai tuoi occhi. Prova. È quello che mi illumina. Ci siamo. Pure se sto ci siamo finalmente. Perché siamo vento che non smette di soffiare. E ancora. Buonasera a tutti e a tutte, scusate l'immenso ritardo, ma i problemi tecnici sono la costante di Radio Wombat. Sono anche il bello, tra l'altro. Sì, sì, sì, concordate. Perfetto, buonasera dice a tutti funziona. E tutte. Buonasera. Dice che funziona tutto, incredibile. Sì. Ogni volta è un non un parto, ma le ostetriche in confronto a noi sono esatto. Delle principianti. Esatto. Allora, qui c'è Bricobaldo, abbiamo Nenia e Joao. Ciao a tutti. Ciao a tutti e tutte, e stiamo seguendo, stiamo cercando di seguire il corteo in memoria per l'orso, per Orso Tehoser, caduto in Siria il 18 marzo. Era un compagno rifredino, nato e cresciuto a Firenze, nel Rifredi, nel quartiere, si può dire uno dei primi quartieri popolari della Firenze industriale, e anche il più popoloso. Siamo qua con... abbiamo acchittato la regia presso il Progresso, che ringraziamo, il circolo, la Casa del Popolo del Progresso, di Vittorio Emanuele, grazie mille, veramente. E a brevissimo partiremo con i primi collegamenti con il corteo. Siamo partiti, Firenze ci ha cresciuti, fatti da soli a testa alta senza aiuti, rabbia ed attributi all'ordine del giorno, passo e chiudo, avanti un altro stronzo. Di qua siamo partiti, Firenze ci ha cresciuti, fatti da soli a testa alta senza aiuti, rabbia ed attributi all'ordine del giorno, passo e chiudo, avanti un altro stronzo. Ogni fottuto giorno alzo gli occhi sopra il cielo, le cose che non vedi se le fedi butta al telo, frasi scritturate come quelle del Vangelo, alieno in questo mondo, almeno vado fiero, padrone di me stesso ma hai solo passeggero, combatto l'esistenza come un cazzo di guerriero, legato con catene lascio il trono dell'impero, 2 anni senza un senso fino al passo dello sclero, sentenza di una vita che non lascia via d'uscita, apre le ferite come lama di una spada, congela e poi ammazza come neve nel Nevada, a scatti vedo foto che mi porta nel passato, avanza la memoria della corsa su di un prato, di colpo il mio compare dentro il commissariato, soffrire e mai tradire questo è ciò che ho imparato, impresso in te stesso sarei sempre rispettato. Di qua siamo partiti, Firenze ci ha cresciuti, fatti da soli a testa alta senza aiuti, rabbia ed attributi all'ordine del giorno, passo e chiudo, avanti un altro stronzo. Di qua siamo partiti, Firenze ci ha cresciuti, fatti da soli a testa alta senza aiuti, rabbia ed attributi all'ordine del giorno, passo e chiudo, avanti un altro stronzo. Sono cresciuto ai bordi della città, con l'amore di mamma e papà, poche chance per i ragazzi di quartiere, sere passate sulle panchine a bere, pochi soldi e un obiettivo in testa, fare musica, musica, la protesta, in più gli anni passano e i veri amici restano, i nemici mi accerchiano, i miei miti invecchiano e tanti sacrifici per la mia famiglia, tante lacrime sopra le mie ciglia, e fra ho lavorato sempre anche quando andavo a scuola, e non mi invento nessuna parola, e per certi fatti ho il nodo in gola, come quando prendi troppa Coca-Cola, la mia infanzia è in un istante, e non bastano 1000 risposte, per le vostre 1000 domande, per le vostre 1000 domande. Di qua siamo partiti, Firenze ci ha cresciuti, fatti da soli a testa alta senza aiuti, rabbia ed attributi all'ordine del giorno, passo e chiudo, avanti un altro stronzo. Di qua siamo partiti, Firenze già cresciuti, fatti da soli a testa alta senza aiuti, rap ed attributi all'ordine del giorno. Passo e chiudo, avanti un altro stronzo. Esco di casa, mani in tasca, fuori e nebbia. Penso a mia madre se gli avessi dato retta. Avrei un diploma, dimmi poi che cambia. Il peso della carta pesa meno di una fitta in pancia. Un nuovo inverno alle porte, Firenze è tutta uguale. Finisco un'altra birra proprio come quest'estate. Son sempre io, mezzo per le vie del centro. Parlo con il vuoto, Simo, cosa stai facendo? Ricordi forti, ti giuro, sicuro non per molti. La vita che ci fotte, tanto saper rimpiazzarci. Prova a voltarti, un passo negli sbagli. Adesso l'hai capito, di nessuno puoi fidarti. Vedi, mi diverto a passare sere in casa. Credi che a vent'anni una strada l'abbi trovata. Non rido, c'ho un motivo, mi fate tutti schifo. Tenore il solitario, io la gente la schivo. Yeah, filtro Foltri, come i fratelli dell'esercito ribelle. Yeah, supporta la merda più vera. Però scusami, vai, vai, scusami. Vai. Rieccoci. Siamo rientrati adesso. Eccoci qua. Eccoci qua, scusate gli inconvenienti tecnici, stiamo siamo vicinissimi alla manifestazione che c'è in questo momento per il compagno Orso Tecosher. E manifestazione coloratissima, tantissime persone. C'è stato adesso l'intervento di Davide Grasso, okay, e altri interventi sui Foreign Fighters. E, quando ho abbandonato la manifestazione, 5 minuti fa ero lì, era proprio in corso un intervento proprio su questo argomento, sul fatto che sulla strumentalizzazione anche di queste persone nel momento, in momenti così particolari che sembra passino per eroi di tutti i principi, ecco, occidentali. E ora sto un po' andando a braccio, e quando invece tornassero da vivi in Italia, sappiamo bene com'è che va la questione qual è l'accoglienza. E abbiamo una telefonata in diretta dalla manifestazione. Adesso, ok, nel frattempo siamo qua. Andiamo a ragionare proprio di questo. Andiamo a fare un po' di... Nel frattempo io ho evidenziato un pochino di testi di Orso, di Lorenzo Ossetti, dall'inizio del suo percorso da Tecosher in Rojava. E partiamo dal dicembre del 2017, uno dei primi mesi. Aspetta, ti stoppo. Andiamo alla telefonata. Abbiamo il compagno della rete Kurdistan Toscana. Perfetto. Vai, mandiamo. Eccoci qua. Sì. Pronto? Pronto? Sì. Eccoci. Ci siamo. Ora ci siamo in diretta. Sì. Ciao. Ciao. Benvenuto su Wombat. Dici un pochino questa piazza, come è partito questo corteo, quali sono gli argomenti finora trattati e niente, com'è la situazione? Sì, oggi in piazza di Leopardo, da vicino a piazza di Lorenzo Tecosher, abbiamo partito. Oggi siamo a Fiorentina per far ricordare Lorenzo Tecosher per sua idea, come diceva, che sarete tempesta. Oggi siamo in città di Firenze, piazza di Firenze, siamo a tempesta. Per idea sua, per giustizia sua, per libertà che ha fatto combattere, siamo oggi in piazza. Continuerà la sua lotta, continuerà contro il fascismo, contro ISIS, contro lo Stato turco, continuerà a combattere contro il fascismo. Bene, in questo momento, cioè, alla fine del messaggio di Orso, dell'ultimo messaggio abbiamo avuto da parte di Orso, c'era il termine Serkeftin, no? La vittoria. Ci potresti aggiornare un po' sulla situazione attuale in Rojava, cosa è successo negli ultimi giorni, questo insomma. Sì, guerra ancora continua, giustamente che noi 52.000 chilometri abbiamo liberato da ISIS, donne curdi, uomini curdi con YPG, YPG, PKK, internazionalisti, insieme abbiamo continuando a finire ISIS, però purtroppo ISIS è mentalità di ISIS che ancora non ha finito. Quando noi possiamo far cadere il governo turco, far cadere il dittatore Erdogan, e cadere ISIS anche, finirà ISIS anche. Sapete anche voi, ISIS non da solo ha iniziato questa guerra, proprio è un ruolo di Stato turco, il governo turco che ha messo il nostro paese. Per questo ancora continua guerra che noi abbiamo, dopo di Lorenzo caduto, subito dopo giorno abbiamo liberato anche città di Bahoz dove è caduto Lorenzo, però guerra ancora continua. Per questo annunciamo in tutta Europa, rompiamo questo silenzio e rompiamo anche questi interessi. Bene, in questo momento in Turchia ci sono le elezioni dei comuni, no? E le elezioni in Turchia come possono influenzare questa battaglia? Che cosa ci si aspetta dalle elezioni che ci sono adesso in Turchia? Ultima tre mesi ancora continuato di queste preparazioni e lesioni. Dittatore Erdogan ancora ha continuato a minacciare tutti i popoli e tutti i partiti legali come HDP, HDP, partito legale e tutti i sindaci, anche i parlamentari stanno in carcere. Migliaia di membri del HDP curdi hanno arrestato. In Kurdistan proprio andare avanti con il partito di MHP fascisti che stanno seguendo in Kurdistan proprio bloccare un'altra volta. Noi di elezione vinciamo in Kurdistan come 2015, abbiamo vinto 104 sindaci ancora uguale e vinciamo, però purtroppo in tutto avanti di Europa ancora in Turchia sta sotto blocco e sotto di criminale del governo turco e governo Erdogan. Per questo non c'è una elezione proprio reale, una elezione di democratico. Ok, la democrazia non c'è in queste elezioni, abbiamo capito. Ti ringraziamo intanto, ci sentiremo forse più tardi. Nel frattempo niente, buona manifestazione e niente, parlate un po' anche per noi. Non sento, scusami. Ci sentiamo dopo. Ci sentiamo più tardi. Ok, va bene. Grazie. Ciao. Okay, dobbiamo ancora continuare. Grazie. Certo. Grazie mille. Grazie. Ciao. Eccoci. Questo era un compagno della rete Kurdistan Toscana che ci ha aggiornato sia sulla situazione in Siria e di Baghouz, che ci ha ribadito che la guerra continua e continua finché finché esiste Erdogan, finché lo Stato turco continuerà a giocare questo ruolo nello scacchiere internazionale e finché le idee di ISIS non saranno sconfitte, perché messaggio importante era quello suo in cui diceva che delle vittorie importanti sono state ottenute, però che ancora la guerra non è vinta. E niente, colgo l'occasione per riportare una delle frasi di Orso, che l'ha scritta in inglese, la traduciamo, diciamo: gli uomini e le donne unite che collaborano e lottano fianco a fianco, non c'è un'altra maniera per una reale rivoluzione. Chiunque consideri lui stesso un compagno farebbe bene a tenere questo concetto base ben chiaro nella sua mente. Noi abbiamo bisogno degli altri, e se noi facciamo prevalere l'astio e il pregiudizio per avere risultati, ogni nostra azione sta andando a fallire, ecco, andrà a fallire. Insomma, un messaggio di unità nella lotta fondamentale, direi, ecco, sì, fondamentale. È uno dei messaggi credo più importanti che ci ha mandato Tekocher, ecco, insomma, l'unione nella lotta contro un qualcosa di contro un nemico comune a tutti, e nello specifico citerei anche un'altra frase, questa in italiano: solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo di ciascuno di noi si può fare la differenza. Anche questo è un argomento molto, molto collegato, nel senso che, ecco, senza unirsi tutti quanti insieme, ecco, non si può raggiungere risultati contro, soprattutto quando il nemico è così cattivo, è così forte, esatto, è così... ed è così anche protetto e aiutato da uno degli stati più potenti del mondo e nell'area sicuramente il più potente, sì. qual è la Turchia, era uno delle questioni cruciali a proposito anche delle elezioni che ci sono oggi e che si stanno svolgendo, e che accennava, sì, anche il compagno curdo. Sì, a proposito delle elezioni, ho trovato stamattina un articolo, dopo ne parleremo, e nel frattempo la manifestazione si sta snodando all'interno delle vie della zona di Statuto Leopoldo, sì, zona cara a Orso, sua zona d'appartenenza della città, Rifredi, un quartiere che ha risposto presente a questa manifestazione, ma ci sono moltissimi compagni da tutta Italia, si, sì, tratta di una manifestazione nazionale, e davvero il calore è tanto, la commozione anche per molti. Tra l'altro qui davanti, proprio qua, sì, sì. E qua davanti abbiamo avuto il piacere anche di conoscere Orso, il cane di Orso, ah, okay, che è rimasto qua con un suo amico carissimo. Non abbiamo avuto la fortuna di veder passare il corteo dal Circolo del Progresso, che era proprio una delle tane predilette, sì, forse la tana di Orso quando stava a Rifredi. E niente, il corteo continua una manifestazione veramente partecipata. Sì, ormai è partita da una, penso, una mezz'oretta buona, sì, è partita da Piazza Leopoldo, e se noi sappiamo la destinazione finale, io sinceramente non so perfettamente il percorso, proprio quale, no, strada andrà, anche perché a è un po' cambiato estemporaneamente, okay, esatto, perché in teoria sarebbe dovuto passare, avrebbe dovuto fare tutta via Vittorio Emanuele, in realtà ha è stata dirottata a un certo punto, esatto, però sicuramente la direzione finale è quella della fortezza, quindi poi lì ci sarà la fine. Mi stacco un secondo, perché sta arrivando al telefono un'altra. Nel frattempo andiamo ancora a leggere un qualcosa di Orso, andiamo a parlare del suo credo politico. Orso era anarchico e ci ha lasciato anche delle frasi importanti riguardo questo. Ne cito una. No, la diciamo dopo? Allora, no, la dico adesso. Mandiamo la telefonata, ok? Abbiamo un'altra telefonata dal corteo. Eccoci qua. Pronto, ci senti? Eccoci, siamo... Ciao a tutti e tutte. Allora vi passo Claudio Locatelli, che è stato un combattente con le forze curde. Ok, perfetto. Buongiorno. Sì, ciao Claudio. Pronto, ciao, ci senti? Sì, vi sento, ditemi ci pure. Senti, bene. Approfitterei per parlare un po' della questione Foreign Fighters e insomma anche volendo della tua esperienza non lo so, anche se hai qualcosa su Orso proprio nello specifico, se lo hai conosciuto il compagno Tekocher, insomma, intanto partiamo dai Foreign Fighters, se si crede, chiedimi pure. Si voleva chiedere riguardo l'argomento Foreign Fighters, dei combattenti italiani che sono andati in Rojava. Ci tengo subito a dire che Foreign Fighters è un termine improprio. I combattenti internazionali, cioè tutti noi e tutte noi, hanno questa definizione. Foreign Fighters sono riferiti principalmente a ISIS, ovvero quelli che sono che erano i miliziani del califfato che ora sono nelle nostre carceri. Ok, scusaci, non intendevamo dire una cosa sbagliata. Le persone non è un problema, l'importante è verificarlo insieme. Benissimo, benissimo. Vai, vai, dici. Beh, l'impegno dei combattenti internazionali, delle combattenti internazionali è un impegno importante, ma non dimentichiamo che sul campo sono i combattenti curdi e le combattenti arabe curdi che fanno la differenza. Certo. Noi abbiamo apportato il nostro impegno per coscienza, senso del dovere e ciò che ritenevamo giusto, ma è a loro che va il massimo rispetto. Tutti insieme abbiamo potuto fare quello che avete visto, la vittoria, la sconfitta del la vittoria nostra, la sconfitta sul califfato, e questo è quello che bisogna tenere a mente. Certo. E scusa, ci senti? Sì, poco, però ti sento. Ok, no, ti chiediamo anche, appunto, abbiamo sentito un compagno della rete Kurdistan Toscana poco fa che ci ha aggiornato, certo, sulla questione degli ultimi giorni, anche di Baguz e della, dove è caduto Urso, certo, e sosteneva che l'ISIS è sconfitto, ma non è sconfitto finché esistono le idee dell'ISIS e finché la Turchia questa continuerà. Questa è una cosa che dico da diverso tempo, fin da quando sono tornato da Raqqa. La mentalità di ISIS, che è la stessa mentalità che potete ritrovare nell'attentato in Nuova Zelanda o nell'attentato di Macerata, quel tipo di pensiero non si sconfigge da un giorno all'altro. Esatto. La mentalità del terrore è qualcosa di radicato, che bisogna combattere ora. Noi abbiamo sconfitto l'ISIS militare, ma quella mentalità richiede un lavoro più ampio. Esatto, e pensiamo anche che appunto la solidarietà e questo internazionalismo possa aiutare a sconfiggere o comunque a combattere ISIS e le sue idee e quindi il fascismo fondamentalmente anche da qua e da tutto il mondo, insomma. Certo. Poi ci vuoi dire due parole sulla sorte invece dei combattenti che riescono a tornare, che sono riusciti a tornare in Italia, quali te e altri compagni? È degli ultimi giorni è estremamente drammatico il fatto che non ci si dovrebbe aspettare solo un encomio per tutti quelli che hanno impegnato la loro vita, sono stati disponibili a metterla per l'intera causa mondiale, ma non, sicuramente l'opposto non può esistere. In questo momento i ragazzi di Torino e un ragazzo sardo sono sotto accusa e vengono considerati pericolosi, tanto da il rischio è che gli vengano applicate delle misure speciali, come se fossero delle persone pericolose. Una persona in grado di mettere a disposizione la sua vita per il bene di qualcuno non è pericolosa, è una persona disponibile, è una persona che ovviamente è ciò che servirebbe. Chi vorremmo accanto noi se qualcuno tentasse di rapinarci o di violentarci, se non una persona in grado e disposta ad aiutarci? Assolutamente. E certo. Le misure che sono state richieste dalla Procura di Torino sono misure tra l'altro estremamente restrittive nei confronti dei compagni che avrebbero... Sono misure del codice fascista italiano, esatto, o meglio prese da quel codice, e sono assolutamente impensabili. Che tipo di valore vogliamo descrivere in Italia? Un valore per cui le persone che si danno da fare e si mettono a disposizione valgono, o l'opposto? E non fare nulla premia quasi di più, è questo che vogliamo trasmettere? Infatti quello che sta passando è proprio questo da parte dello Stato italiano, che non perde mai occasione di darsi questa immagine, perché poi è quello che è. Un'altra cosa, stavamo parlando proprio adesso prima di... Un'ultima cosa, dimmi pure. Sì, mi senti? Sì, una cosa che ti volevo dire, nello specifico il discorso che come lo percepiamo da qua o come si può riuscire a leggere in alcuni articoli, sul fronte del Rojava, insomma, in Kurdistan, combattono fianco a fianco compagni che vengono da percorsi molto differenti, sia proprio da città differenti, perché ma anche proprio da... Questa è una causa globale, questa non è una causa in un'unica politica, certo, questa riguarda tutta l'umanità. Certo, non lo so, se ci vuoi accennare brevemente, non lo so. Certo. Sono persone che hanno già una sensibilità attiva verso la causa kurda, persone che hanno una sensibilità attiva verso combattere per ciò che è giusto, ma soprattutto tutti siamo uniti dal fatto che al di là il cosiddetto nemico è in realtà qualcosa di comunemente da avversare, ovvero è il fondamentalismo religioso, è il razzismo, la segregazione, l'oppressione dell'uomo sulla donna, questo è ISIS, questo è quel modo di pensare. Sì, sì, sì, certo. E lo combattete e con tutti i vostri anche modi di pensare. Anche se i percorsi d'arrivo possono essere diversi. Certo. Quindi è un po' anche il nemico che vi accomuna tutti, in un certo senso, oltre che un ideale di fratellanza. Il nemico non si combatte solo contro qualcosa, certo, ma per qualcosa. Certo. Quello chiaramente è il contro. Il per è la rivoluzione del Rojava, quell'insieme di popoli, arabi, curdi, yazidi, cristiani, islamici, atei, che insieme sono riusciti a fare qualcosa di diverso. E non è scontato, non riusciamo a essere uniti in Italia. Pensate a Gorizia, pensate a Trieste, pensate a Sud Tirol e via dicendo. Il Rojava sta davvero facendo una rivoluzione, se non è rivoluzionario questo. Sì, sì, sì, no, incredibile, infatti era di questo che volevamo sentire, ecco, che volevamo parlare, ecco, di questa situazione in Rojava. Ti ringraziamo, grazie Claudio, ci sentiamo. Buon lavoro. Grazie, grazie, ciao. Ciao. Bricco. Pronto? Baldo, ciao caro. Sì. Come stai? Ecco, sì, allora, come va? Ho sentito abbastanza bene, lui aveva difficoltà proprio perché noi abbiamo sentito bene. Eravamo vicini al camion e c'è veramente tanta gente, è difficile anche stimare quanti perché il corteo si sta svolando, ora siamo su via dello Statuto, abbiamo appena passato la ferrovia alla stazione di Statuto e quindi arriva tutta via Vittorio Emanuele, non si riesce a capire quante persone sono, si riesce a capire che sono tante sì, persone. Ci stiamo indirizzando verso la fortezza, siamo veramente vicini, ora ci siamo un attimo fermati, e si sta compattando tutto il gruppo, è bello, colorato, tantissime bandiere, ci sono le bandiere della comunità curda, le bandiere del Rojava, compagni, compagne, vicini, veramente un grande assemblamento di persone, un'atmosfera veramente particolare. Molto bene, allora, molto bene. Avete sentito Claudio Locatelli, esatto, avete sentito la comunità curda. Io cercherei ancora, magari mi interessava Davide Grasso, trovarlo e far magari fare due parole riguardo al processo che stanno subendo, e fare un fighter rientrati, soprattutto i ragazzi torinesi, ragazzi e la ragazza Eddie. Se sei d'accordo, io posso anche cercare qualcuno degli spazi fiorentini da passarvi, perché sicuramente tutti hanno tantissime cose da dire. Ci può stare assolutamente. Tra l'altro, niente, sì, aspettiamo le tue telefonate. Bene, va bene, bene, ne farò allora. Dai, ciao, caro. Ciao, ciao. Eccoci. Che si fa? Si passa un Io manderei pezzo? Una canzone. Ok. Almeno ci stacchiamo un secondo da questa situazione e vediamo un po'. Bene. Come andare avanti. Eccola qua. Dai. La stessa banda delle medie. Che tu fai quest'estate, baby, da Hannes a Mary Refrain. E anche questa non si parte, piscinetta gonfiabile in garden, pure le birre son calde, ma io so così fresco, pasta col pesto, baby, vieni a trovare i Freddy, lei ama quanto me questo cazzo di quartiere, mentre canticchia al parco dei cani sognando le Hawaii. Scendo giù al parchi, mi stappo una vibe. Ciabatte for life, fanculo stay night. Ancora È stata rifredi, se soldi un li tieni. È stata rifredi, se soldi un li tieni. Lungo Mugnone tipo le Seychelles, ponte di mezzo pare Santa Fe. Cosa di dire? Premiamo burro scuro da Marrakesh, anche la birra la pigliamo fisso dal Bangladesh. Com'è? Anche quest'estate lo sai com'è che va, babe. Estate al limone, sì. Xanax 30 gocce, faccio vasche in giro tutto sciolto nei paraggi. Castello, piagge, Brozzi, Corsica fino a Careggi. Anche quest'estate lo sai com'è che va l'Aid. Prendo il treno in Santa Maria, scendo giù a Rifredi. O a Statuto, non ho soldi per portarla dove vuole, tiene il muso. Io faccio il vago e sudo. Forse non ci credi ma non muovo sti piedi. Stappati una birra poi perché non ti siedi. Quando non ci vedi siamo in viaggio a rifredi. No, spiaggia rifredi, viaggia rifredi. Forse non ci credi ma non muovo sti piedi. Stappati una birra poi perché non ti siedi. Quando non ci vedi siamo in viaggio a rifredi. No, spiaggia rifredi, dalle piagge a rifredi. Lungo Mugnone tipo le Seychelles. Ponte di mezzo pare Santa Fe. Premiamo burro scuro da Marrakesh. Anche la birra la pigliamo fisso dal Bangladesh. Baby resto qua, a rifredi, sa meri rifredi. Baby resto qua, a rifredi, sa meri rifredi. Baby resto qua, a rifredi, sa meri rifredi. Baby resto qua, a rifredi, sa meri rifredi. Tu lo sai. Già cari miei, si rimane da ste parti. Non essere una questione di soldi. Cause di forza maggiore ci fanno restare da ste parti. Che sia la donna, che sia il lavoro, che sia il cazzo di stato. Summer di Freddy, Joe, Crucco e Ninja sono con me. Pape 2017. Rieccoci. Allora, nel frattempo abbiamo un collegamento telefonico ancora dal nostro Bricobaldo attivissimo. E abbiamo un collegamento con un compagno degli spazi sociali fiorentini. Eccoci qua. Ciao, ci senti? Sì, ciao, vi sento. Allora vi faccio un compagno fiorentino, un compagno di Mondetti. Ok. Sì, ciao a tutte e tutti. Ciao, ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Bene. E, insomma, dici un po' come è stata vissuta in chiave mondeggina, ecco, questa questo corteo di oggi, come ve lo state vivendo e niente, non so, un pensiero per Lorenzo, per Tecosher, Orso, chiamiamolo come vogliamo. E, insomma, dici un po'. Beh, intanto ora siamo in un corteo veramente molto molto affollato e questo, tutto ciò ci fa molto piacere. Abbiamo accolto la notizia della morte di Orso qualche settimana fa con veramente molta tristezza e anche rabbia per come è stato ucciso dallo Stato Islamico. Pensiamo che la lotta di Orso, la lotta che viene portata avanti tutti i giorni dal popolo curdo nei territori della Siria, dell'Iraq, della Turchia, che è una lotta che si lega profondamente a quello che è un messaggio di autonomia, di indipendenza e di libertà. Tutto ciò pensiamo sia veramente molto a stretto legame con ciò che proviamo a riprodurre nella realtà di Mondeggi, seppure piccolo. Infatti sappiamo benissimo che i presupposti della seconda parte appunto del movimento curdo sono stati quelli anche e soprattutto quelli dell'ecologia e del femminismo, ecco, questa visione di una società dove anche l'uomo non prevale sulla natura ma prova a convivere e in pace ed armonia anche con tutti gli altri elementi e con tutte le altre popolazioni, con le altre religioni, sia parte della lotta anticapitalista. E questo sicuramente è il messaggio più bello e il ricordo più bello che ci ha lasciato Lorenzo, che è quello di lottare per la libertà e per l'amore che si prova anche proprio per le persone che ci stanno vicino. Quindi vogliamo rilanciare un ricordo e un abbraccio fortissimo a tutti gli amici, alla famiglia di Orso, i compagni curdi che hanno combattuto con loro. Certo. Bene, come sta andando il corteo invece? Una voce dal corteo, dove siete? Come, in che fase è? Chi sta intervenendo? Il corteo si sta spostando, abbiamo appena oltrepassato la stazione di Rifredi e stiamo proseguendo. È un corteo veramente numeroso, sta andando benissimo, ci sono tantissime, tutte le realtà fiorentine, tantissime persone da tutta Italia, dalle comunità curde sparse appunto per la penisola, che sono venute a ricordare questo compagno tanto coraggioso che ci ha lasciato un esempio e qualcosa ancora in cui sperare. Ok, benissimo, dai, nulla, ci risentiamo un caso in corso di questa manifestazione. Buona diretta. Grazie mille, buon corteo a te. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Eccoci, dimmi, dici Bricco. Bricco, Bricco Valdo, vabbè, fai che vuole. Benissimo, allora siamo rientrati qua in regia e continua il corteo, come avete potuto sentire. Avete sentito la testimonianza di un compagno di Mondeggi, ma si può affermare tranquillamente che la vicenda di Orso, ma comunque la vicenda curda anche prima, però insomma, quanto accaduto poco fa ha scosso abbastanza gli animi di tutte quante le persone che si impegnano per l'altro, insomma, all'interno di Firenze. E le parole del nostro compagno che abbiamo sentito poc'anzi potrebbero essere buone per quasi qualunque compagno fiorentino. Sicuramente questi fatti aprono grossi solchi negli animi degli altri compagni, da cui insomma ci auguriamo possano insomma crescere cose belle, insomma ci auguriamo di poter davvero essere tempesta come Orso avrebbe voluto. E nel frattempo continuiamo, in sottofondo abbiamo tutti i pezzi locals, Riffredini, come a Orso sarebbe probabilmente piaciuto. E continuiamo ancora un pochino a leggere un pochino di pezzi di Orso. All'inizio volevo leggerlo, poi siamo stati interrotti da un intervento. Partiamo dal 2017, quando dopo pochi mesi che Orso è arrivato in Rojava, diceva: la rivoluzione più bella del mondo, non avete idea di che sollievo sia trovare un posto dove parole tipo libertà, uguaglianza, democrazia, rispetto, femminismo, socialità eccetera eccetera hanno ancora un senso e non sono state stravolte o peggio ancora svuotate di ogni significato come da noi. La cosa più bella che ho trovato qua finora? La speranza, e me la tengo ben stretta. Ecco, questo era quello che un pochino sentivamo, credo, dal compagno, da Alessandro, abbiamo sentito prima essere andato lui stesso anche in Rojava. Libertà, uguaglianza, democrazia, rispetto, femminismo, socialità, tutte parole che penso possano piacere a tutti quanti i compagni, e quindi penso che possano unire. Ecco, mi posso soltanto immaginare qua da Firenze che cosa può voler dire. Continuiamo ancora con l'inizio della battaglia, della guerra, della lotta di Orso per il Rojava, con uno suscritto del 12 dicembre 2017. Tanto per essere chiari, non sono un pazzo, un incosciente o uno che si trova qua per caso, uno in cerca di fama oppure un invasato militare. Non mi piacciono le guerre e non ho mai confuso i videogiochi e i film di Hollywood con la vita reale, pratica ahimè assai comune tra alcuni internazionali. Del resto purtroppo sono nati e cresciuti nella società che abbiamo ed in un certo senso sono vittime anche loro. Sapevo benissimo i rischi ai quali andavo incontro e ne sono consapevole tuttora. Se non mi importa è perché sono fermamente convinto che non può esistere libertà senza assumersi i propri rischi. Lo spauracchio della sicurezza, utilizzato per ingabbiare la gente e nella minaccia costante su di me, non ha mai sortito alcun effetto. La rivoluzione curda è la cosa più vicina ai miei ideali che abbia mai trovato ed è un piacere e un onore prendervi parte. Questo è uno dei numerosi messaggi di Orso da notare, tra l'altro. Probabilmente, non lo so, queste sono un po' conclusioni che si possono trarre dalla frequenza con cui andava a scrivere. E si nota che negli ultimi mesi Orso aveva preso proprio il via a scrivere, ha scritto moltissime cose, mentre inizialmente scriveva ogni tanto, insomma erano meno frequenti e soprattutto meno dettagliate e lunghe le sue descrizioni. Parlando ai margini con qualche suo amico, non so, sembra proprio che abbia trovato se stesso laggiù, che anche questo insomma, mi raccontava un amico suo che Orso ha sempre scritto nella sua vita, anche prima di intraprendere quest'ultima parte in Rojava, ma non aveva mai fatto leggere niente sostanzialmente a nessuno, almeno questo è quello che mi ha detto il suo amico. Vedere che via via durante questa esperienza lui poi ha iniziato a scrivere, e scrivere anche molto bene, perché molte delle parole che ha scritto le abbiamo lette tutti noi compagni, e penso che tutti quanti ne siano rimasti toccati. Ecco, insomma, sembra proprio è una storia brutta, ma è una storia bellissima in un certo senso. Vai. Diciamo che è una fortuna poter avere queste testimonianze, perché molto spesso e molte altre esperienze di compagni che sono attivi in lotte all'estero e... Sì, ok. Così, se funziona il microfono, sì. Dicevo appunto che sì, giustamente come hai detto te, è sicuramente un diario prezioso, perché molto sì. Spesso quello che manca no, per motivi pratici, per motivi proprio di mezzi, a volte di tempo, di appunto di incombenze, è una testimonianza, no? Un diario dei compagni che sono appunto immersi nelle lotte all'estero, noto anche per parlare anche di altre zone, compagni che insomma si sono accollati alle lotte in Palestina piuttosto, certo, che in altri paesi, ecco, in cui in situazioni che si possono, diciamo, affiancare, no? Paragonare, se mai è possibile, ogni posto è diverso, ogni lotta è diversa. A questa, quello che appunto è difficile poi, che manca, è un po' una riuscire a avere un appunto un diario, non dico quotidiano perché magari non è possibile, però insomma una cadenza, no, di informazioni continua. In questo, ecco, credo che lui sia stato molto bravo, molto, certo, anche molto generoso, perché comunque non deve essere facile appunto riuscire a trovare il tempo e il modo in situazioni estreme in cui sei, no, di... sì, sì, facciamo una shit, dice guerriglia nei boschi e smartphone non vanno tanto d'accordo, no, scriveva, esatto, il 14 febbraio. Ora, 2018. Sicuramente i tempi aiutano, magari il 2018 è meglio di come poteva essere il 2001, però sicuramente, ecco, sì, comunque credo ecco, che sia difficile riuscire a comunicare continuamente, come invece lui poi è stato bravo a fare, e anche appunto come dicevi te con una certa maestria, quindi sì, e probabilmente anche con un certo sforzo, no. Ad esempio l'ultima intervista di Radio Onda Rossa, no? Che, sì, nella quale proprio si sente la voce spezzata dalla fatica, dalla guerra, che porca miseria, dalle condizioni, sicuramente le condizioni erano quelle che erano, però appunto c'è proprio la volontà di farla questa intervista, la volontà di scrivere, di testimoniare tutte le cose, credo poi alla fine la cosa più importante che ci rimane, sì, perché anche l'assito appunto di una persona, ovviamente, certo, però il fatto che abbia lasciato scritte le sue impressioni e le sue le emozioni che ha provato, e non solo, anche tutti quanti, proprio testimonianze, proprio la cronaca. Beh, di quello, cioè, aiuta delle cose, anche poi a capire un percorso, una scelta che invece viene spesso, come si diceva, come dicevi, dicevate prima, viene spesso strumentalizzata, no? Viene spesso, certo, appunto, no? Lui secondo me è carino quando dice, quando specifica, come hai letto prima, io non sono uno fanatico della guerra, non sono uno, no? Certo. Perché paradossalmente... Perché ti viene da pensarlo, di uno che va in guerra, no? Ora non di lui, non di, cioè, questa situazione, però altro, in generale a una persona X... Più ti viene che da... altro i mostri che si leggono poi sui giornali, no? Le cose mostruose, del tipo che lui viene paragonato a gente, a mercenari, cioè io ho letto una roba e lui veniva, sì, paragonato, vabbè, tipo le famiglie dei mercenari, no, perché comunque anche mio, sì, figlio, ho capito, ma quello è un mercenario, va, no, va, è la cosa per, più distante, muore, che, cioè, possa esistere, no, da un mercenario, quello che ha fatto Orso, cioè. Invece paradossalmente poi la stampa, no, i media, comunque per la società in generale mettono tutti nello stesso calderone, no, perché comunque gli fa comodo far apparire che la gente che poi si accolla alle cose sia comunque appunto, no, predisposta, estrema, certo, e poi dal momento violenta, che siamo anche noi Europa che gli diamo le armi a quelli che poi l'hanno ammazzato, insomma, forse, certo, c'è anche un po' tutto questo, cioè, sicuramente c'è anche il problema principale poi di base resta sempre che, no, perché non, cioè, come dire, che ci deve essere sempre uno scopo, no, per la società civile, se ti fai una cosa deve avere uno scopo che ha comunque un ritorno in qualche, certo, modo, sia economico, sia di gloria, sia militare, che sia, no. È difficile far capire a chi non sente certe idee come proprie che il principio è proprio che io lo faccio perché lo credo e non perché poi ottengo qualcosa o ho un ritorno. Sì, no? Sì, certo. Però è chiaro che non è lo stesso. E lo faccio anche perché è l'unica cosa da fare per cercare di difendere queste persone, perché tante persone, no? Certo. Ci sono tanti che parlano contro la guerra a prescindere, no? Nel senso, chiaro. Se io prendo il fucile divento cattivo automaticamente, no? In una qualche maniera. Però ovviamente il discorso che c'è da fare qua proprio veramente a livello semplice, perché capito. Qualche volta bisogna, cioè nel senso, bisogna farlo a livello semplice, perché poi le persone che non riescono a fare questo scalino sono semplici, quindi facciamolo il più semplice possibile, quasi da bar, no? Ma se nessuno si prende la briga di prendere in mano un mitra, un fucile o quello che è, un bazooka o che cosa c'ha per difendere per difendere persone da quelli che gli sparano, cioè, che muoiono più persone. Cioè, qualcuno lo deve fare, cioè, nessuno avrebbe niente da ridire se un attentatore venisse ammazzato dalle forze dell'ordine. No, nessuno ha niente da ridire, esatto, succede. Appunto, cioè, quello che ha fatto Orso, quello che fanno i combattenti in Rojava è questo, sì, è prendere e sparare a delle persone prima che quelle ne ammazzino molte di più da quell'altra parte. Quindi, è chiaro, ecco. Ma poi si giustifica sempre l'uso del mezzo, no? Va benissimo, certo. In paesi come, cioè, ci sono paesi interi in cui la gente può portarsi le armi e sparare a quello che gli entra in giardino perché è legittima difesa. Perché finché si difende la proprietà va bene tutto, no? Però uno che va appunto in un territorio a difendere un ideale, un'idea, allora quello è un pazzo, quello è uno, no? Ah, un estremista. Sì, ma sì, non capisco, certo. Cioè, se vivono in un mondo in cui metà popolazione mondiale ha un'arma e la usa fondamentalmente in maniera indiscriminata, per non parlare delle forze dell'ordine. Certo, infatti, allora aspetta, ora vedo un attimino di ritrovarlo perché me l'ero segnato sta cosa sulle armi, perché insomma stava facendo un discorso. Aveva fatto un discorso Orso qualche tempo fa su vabbè, poi lo troverò. Comunque sì, Sì, beh, ma mi ha sempre colpito anche questo, no? Cioè, è una cosa che mi ha sempre colpito, forse perché ecco, magari... l'ho trovata adesso. È con sommo stupore che apprendo da fonti ANSA e grazie all'encomiabile lavoro della Digos di Nuoro che in Siria, in quello che al momento è uno dei peggiori teatri di guerra al mondo, si spara! Munizione vere, mica cazzi! Wow, ancora stento a crederci, però a questo punto vorrei sapere che idea della guerra hanno la Digos e l'antiterrorismo di Nuoro, in fondo sono militari pure loro, e soprattutto come intenderebbero fermare, se fossero al nostro posto, un esercito di estremisti, fanatici, assassini, stupratori e mutilatori di cadaveri. Che tra l'altro molto ben armati da Turchia e Company. Che facciamo? Gli tiriamo baci e leggiamo abbracci? Massima solidarietà, compagno Ruiz Caria, possano queste accuse idiote, chiaramente strumentali e intimidatorie, cadere al più presto nel nulla che sono. Vabbè, sì. Insomma, solidarietà anche ai compagni, poi... Ma chiaro, ma di tutte le lotte, appunto... Ora in particolare non stiamo parlando di questo esempio, ma... Sì, era un esempio di cose, certo, che aveva detto lui, nel senso per parlare del discorso violenza. Un altro aspetto paradossale, che invece adesso è primario, appunto come dicevamo anche sabato scorso nella diretta, il fatto che, no, che i primi giorni che uscì la notizia della morte di Orso, no, addirittura appunto, no, sui giornali, no, insomma, quasi lo Stato se lo rivendicava, insomma, no, questo morto italiano che nulla aveva invece nella sua esperienza a che fare con lo, certo, Stato e con le sue leggi. E paradossalmente, come tanti hanno detto, e come è giusto infatti così, se fosse tornato, magari, insomma, se fosse tornato vivo da quell'esperienza, sarebbe sotto processo in questo, sì, momento. Chissà come sarebbe tornato, cioè, in questo momento. Sarebbe sotto processo perché i compagni, certo, che come lui hanno fatto questa lotta, di fatto subiscono dei processi, vengono definiti terroristi, quindi lo Stato italiano, no, è veramente in una contraddizione. Troppo comodo quando sono morti chiamarli eroi e quando tornano chiamarli terroristi, non cioè... solo, ma poi mandarli al processo, reprimerli, quindi di che si sta parlando? Allora certo. come dire, no? Secondo me purtroppo la morte di Orso, purtroppo per l'accaduto, ma in realtà ha portato a galla anche tutta una serie di ipocrisie e di... Ci stanno telefonando. Pronti? Sì, ce la facciamo? Stiamo provando a prendere delle altre telefonate dal corteo che dovrebbe essere giunto in realtà al punto. Eccoci, ci dovremmo essere. Ci senti? Sì, ciao a tutti e tutte. Il corteo ancora non è finito, siamo molto vicini siamo alla fortezza, però il corteo è veramente lungo, tantissime persone quindi stanno ancora arrivando. E io vi passerei un compagno di uno spazio sociale fiorentino della polveriera Spazio Comune. Ok. Passacelo. Bene. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, dimmi, cosa volete che vi racconto? Voglio sapere un po' la composizione di questo corteo, secondo te come, come allora, riuscite? Allora, il corteo è veramente lungo, e per Firenze è una cosa abbastanza straordinaria. Ora, sicuramente c'è l'apporto di tanti altri compagni, dalle altre città, della Toscana soprattutto, però penso che il quartiere Firenze abbia risposto bene. All'inizio c'è il settore dei curdi, dove insieme anche alla famiglia, a tutti quanti i suoi amici, ed è forse il settore veramente più lungo del corteo. Quasi metà è composto da questo settore curdo, familiari, amici, cittadini, gente comune che è rimasta colpita dalla storia di Lorenzo e dalla scelta e dalla sua morte. Ecco. Poi ci sono i settori di compagni, i centri sociali, l'area anarchica, ci vedono le bandiere di diversi insomma, gruppi politici. Ecco. Quindi insomma, questo corteo è composto anche da, secondo te, da persone che magari non conducono, diciamo, una militanza tra virgolette giornaliera, ma che magari si sono sentiti vicini alla famiglia, si sono sentiti colpiti da questa vicenda. C'è anche gente che normalmente ai cortei non sicuro, ci va, insomma. Sicuro. Beh, questo è sicuro. Insomma, è positivo. Benissimo. È comunque una vittoria, e quindi anche in questo dobbiamo ringraziare Orso per questo, forse, per aver unito un po' così anche tante anime, no? Che a Firenze a volte non è facile che succeda questo. No, soprattutto riportare in piazza, ho visto volti anche di compagni e compagne che magari in anni passati, durante il periodo, che ne so, degli anni di Genova, no? Mi ricordo, ed era tanto tempo che non li vedevo, e adesso li sto vedendo, li vedo. E loro stessi mi dicevano che sono colpiti dalla presenza numerosa di ovviamente un'area di sinistra. Vabbè, cioè di compagni, chiaro. Di persone, certo, ovviamente certo. è quello però insomma, però non per ecco. Forza, ecco, magari uno aveva paura, non di nicchia, ecco, non forse è il coraggio di Orso ce l'hanno lasciato un pezzettino a tutti, allora forse in questo diciamo questa l'esperienza cosa, ecco. Poi no, vedere un'esperienza diretta colpisce sempre di più che magari no una sì, così, sì. Un'idea certo. Astratta piuttosto che no, riporta magari le persone più quasi alla realtà immediatamente, no? Non che il resto non lo sia, anzi, la militanza quotidiana è più che reale, però magari nella percezione di chi non la fa, no? È più aleatoria. Anche perché gli amici stessi suoi, come lo raccontano, suo padre stesso che è intervenuto in assemblea, la prima assemblea che ha indetto questo corteo, sì. Ma anche noi stessi, chi lo conosceva più direttamente, sapeva che Orso è un compagno con le sue idee, ma non era un militante, cioè non era un militante come altri compagni che sono andati giù a fare la sua stessa esperienza, ecco. Sì, quindi era particolare in questo senso, insomma, era abbastanza unico, diciamo, ecco. Sì, assolutamente. Forse anche questo dà questo collage, lo isolava di me, cioè rispetto magari ad altre esperienze che erano più isolate, che venivano conosciute solo da, no? dai relativi compagni, certo. Mentre lui magari avendo questa rete così, appunto, no? Sì, più varia. Ci sono bambini, però... ci sono famiglie in piazza, e quindi è una presenza da questo punto di vista proprio popolare. A maggior ragione credo per tutte queste cose che insomma abbiamo detto nelle ultime frasi, la morte di Orso e questo sentimento, questo solco aperto negli animi di molti compagni è più che mai trasversale, nel senso abbraccia tantissime persone, insomma, da quanto ci stai dicendo. Sì, come diceva lui, proprio per la natura della persona. persona stessa, probabilmente. Certo, ma ne abbraccia ancora di più per questa natura particolare, cioè, rispetto forse a un compagno militante nel senso stretto della militanza, che si può intendere. Più isolato, magari, sì, certo. Quindi, ecco, per te più o meno, non siamo riusciti a capire, secondo te, così una stima, quante persone ci sono? Io sono pessimo per me, anche io, no, perché come me l'hanno chiesto, vabbè, non so contare. Non ne azzecco mai una. Benvenuto nel mio club, anch'io. Vabbè, dal momento che la questura gira sempre al ribasso e compagni sempre al ribasso. Io ho detto 100, quindi va bene. Sì, perché io temo sempre di fare queste sparate enormi, perché sì, alcune volte capita. No, non temere, non temere, tanto quelle basse le fanno già dall'altra parte. Non lo so, mi confronto anche con... secondo te, scusami, secondo te quanti eravamo in oggi? Più di 5.000 persone, sicuramente. Più di 5.000, ma secondo me sì. Tipo aeroporto ieri, 7.000, una cosa del genere, minimo. Non c'ero quella di ieri, purtroppo, quindi non riesco a fare paragoni. Però tenete conto che a un certo punto c'è stato un momento in cui eravamo veramente... Voi sapete, i cortei si riempiono, sì, poi certo, a un certo punto si svuotano. Certo, certo. Però nel momento più di massima partecipazione... Ecco, ora siamo arrivati alla Fortezza. Ok, e lì c'è un... Tenete conto che stiamo circondando, le persone stanno circondando tutto l'emiciclo che sta intorno al laghetto, cavolo, della Fortezza. Allora, insomma, quindi, boia, 3.000 di sicuro. 3.000, 2.000, sì, 3.000. Sì, sì. Penso di io ero sì, partita da 1.000 all'inizio, mi sembrava 1.000. No, però io sono di più. 1.000 forse proprio alla partenza. Sì, no, io ho visto la partenza, poi chiaramente. Bene, ok, benissimo, perfetto. Benissimo. Ottimo. Soprattutto in questo weekend in cui c'è stato tantissime cose, insomma, tanta gente anche non è riuscita a tornare in tempo dai vari cortei di Verona, Torino, quindi diciamo, c'è stato un po' uno sforzo in questo senso. Benissimo, grazie mille la tua. Grazie a te. Ci vediamo tra poco in piazza. Grazie, ciao. Vai. Ciao. Pronto? Sì. Pronto? Oh, il nostro corrispondente. Ti allora, nel frattempo, Brico Vale. Allora, sì, effettivamente no, 1.000 è quanto dice no, la all'inizio. Sì, buona. Però è veramente... Moltiplica per 10, se è quello che diceva Digo, se c'è più o meno il numero vero, allora. Sì, non so, ma non so se lo fanno apposta o lo fanno per sbaglio, conta male. Ma non sanno lontani, sono come me. Comunque, cioè, la fortezza è gremita, però ci sono veramente tante persone. Vediamo se riesco a mettermi in una posizione un po' sopraelevata e riuscire a giudicare. Ci sono degli interventi, ci sono degli interventi al microfono della fortezza? Cioè ci sono degli interventi, c'è un microfono sì, aperto? Allora, sì, in verità c'è stato un piccolo problema perché il camion non ha, è un po' complesso nella nuova verità della fortezza inserire il camion, fare tutti gli attraversamenti, quindi mi sembra che il camion non ci sia più, forse riescono, ma io immagino che degli interventi ci saranno. Però è complicato da capire ora, c'è stato un attimo un problema organizzativo nel corteo. Okay. E io cerco, non so, gli spazi sociali, avete sentito Mondeggio, avete sentito la polveriera? Sì, potrei cercare i compagni e le compagne del CPA. Sì, tanto hanno... sì, o di Viale Corsica. Sì, CPA, Corsica, volendo, sì, sì, certo. Ma penso ci diranno più o meno tutti le stesse cose, però esatto, va bene sentire un po' tutti. Un altro compagno che è stato Eddie, che è stato in Siria a combattere, è uno dei compagni torinesi che sono inquisiti. Quando lo ritrovo ve lo passo. E se riesco cerco di farvi passare anche la voce dei genitori, magari. Sì, grazie. Okay. Intanto sì, quindi salutiamo. Bene. E per ora, grazie. Bene, a dopo. Ciao. Ok, accidenti, io ero stata bassa come al solito. Erano diversi evidentemente, sono diversi evidentemente, soltanto io una cosina, avevo cominciato prima un lavoro di lettura di varie cose di Orso. Sì, ho fatto i compiti. Bravo. E niente, si diceva un compagno anarchico, Orso, un compagno a modo suo, ecco, come forse tutti quanti gli anarchici. Volevo leggere un pensiero sull'anarchia, mi sembra va giusto per me, lo so che so con te sfondo una porta aperta il 12 marzo quindi adesso è stato scritto da pochissimo da Orso: rossa per la fiumana di sangue versato, nera per il lutto dei milioni di morti, questo è il colore della bandiera degli anarchici, che mai è stata mai nata e che raggruppa tutti gli uomini che amano l'umanità, lottano per la libertà e combattono tutte le ingiustizie sociali. È per questi nobili sentimenti che gli anarchici sono stati sempre diffamati, calunniati, torturati, perseguitati, incarcerati, assassinati in maniera ignobile, vergognosa, che ripugna la coscienza degli uomini. Gli anarchici vogliono vivere in una società umana e fraterna, senza Stato, soldati, denaro, padroni, senza poliziotti, senza galere e senza sfruttatori. Dove tutti si lavora alla produzione di cose utili e vivere veramente la nostra breve esistenza, senza odio, paura, preoccupazioni per il domani. Ora e sempre, viva l'anarchia. Grazie Orso. E questo era il messaggio prima, l'ha mandato alle 7.43 questo pensiero sull'anarchia. Alle 9.11 del 12 marzo c'è l'ultimo messaggio, quello in cui l'ultimo messaggio che ha mandato Orso. Vabbè, aiuto. No, vabbè. Sì, è difficile. È un po' difficile, è proprio. È difficile essere, come dire, no? Essere anche lucidi a parlare di queste cose. Sì, perché sì, io poi ho sempre difficoltà, perché vabbè. Mi sì, speriamo di usare la massima delicatezza e non so, e di rendere giustizia al massimo al nostro compagno, ecco, diciamo, sì, con le migliori intenzioni, come diceva sì. Un mio caro regista. Ma allora diciamo questo, è sempre difficile essere appunto, no, essere giusti, forse essere non essere troppo emotivi quando si parla di qualcosa che ci tocca, questo per tantissimi temi, per tantissime lotte, quindi si cerca di essere no, più esaustivi possibile nel parlare, nel ricordare una persona, il suo percorso, e però appunto non è sempre facile essere scevri da, come dire, da quelli che possono essere definiti magari un po' dei personalismi, perché chi più chi meno, chi più personalmente, chi più così di passaggio ha incontrato questo compagno nella sua vita, anche solo così, in una serata o in uno spazio, e chi invece poi ha fatto un percorso con lui magari più vicino e più lungo. In generale appunto è difficile in questi casi non farsi sopraffare, scusate oggi, dal sentimento, da quello che è poi, e cercare di ricostruire e di rendergli omaggio in una maniera più, diciamo, più intellegibile a tutti, ecco. Certo. Cioè che non allora, sia auto così, no, soltanto a un po' autoreferenziale, un po' emotiva, che come è umano che sia, sai, giusto che sia. Come tutte le volte che una persona, insomma, si allontana, se ne va, certo. È sempre, credo, in un primo momento, insomma, ne abbiamo parlato molto in tante situazioni in questi giorni, no? Anche la prima chiamata che ci fu al Campino di lunedì, non questo che lo scorso, insomma, martedì, sì, insomma, la prima chiamata che ci fu, quell'assemblea lì, c'erano sentimenti, vari sentimenti dentro, c'erano anche sentimenti degli amici che io tutto sommato ho apprezzato anche, cioè, certo. Nel senso, la sincerità del dolore di un amico che anche, insomma, determinati tipi di sfoghi, anche perché se n'era già anche parlato nelle trasmissioni durante la settimana, comunque alcuni interventi degli amici di Orso sono quelli che forse ci possono dare delle chiavi di lettura ulteriori rispetto a quelle che vengono fuori, certo, da sé leggendo una qualsiasi cosa che ha scritto Orso o una qualsiasi cosa che un qualsiasi compagno vada a scrivere su Orso, no? Certo. I compagni, cioè i suoi amici, gli amici di Orso, ecco, non di Tecosher, cioè poi magari anche, però nel senso è a distanza poi di Tecosher, quelli che conoscevano Orso hanno anche comunicato disagi e scorie della vita precedente, diciamo, a quella del guerriero Tecosher, questo è stato importante, perché se non altro ci ha dato un quadro più completo, ci ha dato più letture, anche perché alcune cose sono state dette, no? Che Orso era radicale nelle sue scelte, no? Nella sua vita è sempre stato radicale, no? fa parte dell'essere radicale anche, anche si, sicuramente determinate scelte fatte da lui prima di andare in Rojava. Ecco, questi amici cercavano di comunicare che non c'è stata un'interruzione di continuità nella vita di Orso, sì, con la sua decisione, ma che è sempre stato radicale in tutte le scelte della sua vita, coerente, e a un certo punto ha deciso, porca miseria, dobbiamo andare a difendere questa causa perché la ritengo come giusta, e quindi ha preso e ci si è tuffato con tutto se stesso. Quindi diciamo che questo, ok, benissimo, passiamo adesso, abbiamo un collegamento importantissimo. Guarda, stiamo attaccando il cavetto, tra 5 secondi ci siete. 5 secondi, eccoci qua. Abbiamo Alessandro Orsetti, il padre di Teco Scher. Pronto? Sì, ci senti? Sì, pronto, ciao, sono qui, siamo fermi qua alla Fortezza, siamo arrivati, io vi passerei Alessandro, il padre di Lorenzo. Sì. Pronto? Alessandro, ciao, buongiorno, ciao. Buona domenica. Grazie. Grazie. Che dire? Noi non ti domandiamo niente, forse è meglio se ci dici direttamente te, ecco. Come? Soprattutto, vabbè, magari no? ti saranno state fatte le solite domande milioni di volte in questi ultimi tempi, quindi davvero con tutta l'empatia. Però davvero oggi, ecco, come ti è sembrato oggi? Come ti sembra oggi? Mi è sembrato bellissimo l'idea che c'è, mi è piaciuto proprio questo bagno di pollo, vorrei dire, insomma, tutta questa gente che è venuta da varie parti d'Italia, ma anche gente del quartiere, insieme alla comunità curda, che si sono uniti in questo saluto a Lorenzo. Non un addio, ma un saluto, perché come tutti dicono, Orso vive e continuerà a vivere le nostre lotte e le nostre ideali. Quindi sono veramente contento di questa risposta, veramente. Contento. Certo, sì. Immagino appunto che non sembri banale, difficile, però immagino che questa risposta, appunto, come dicevamo un po' era prima qui in diretta, che viene sia dalle persone che l'hanno conosciuto in maniera magari più, appunto, nella sua vita più personale, più intima, e sia invece chi ha seguito il suo percorso un po' più, tra virgolette, da distanza, attraverso i suoi gesti e le sue parole, no, che ci sono arrivate anche nella sua ultima esperienza. Mi sembra che in questa giornata di oggi queste due anime combinino, no? E ci siano un po' tutte queste persone, insomma, certo. E questo penso che sia una bella, insomma, che sia bello da vedere anche per voi, per la sua famiglia, insomma. Sì. Certo, perché in realtà non ci sono solo curdi, e non si parla solo della lotta dei curdi, si parla di una comunità italiana, di italiani e di curdi uniti nel portare avanti certi valori e certi idee. Ovviamente questo mi è piaciuto. Se Lorenzo quando era partito anche per portare la testimonianza degli italiani e per raccontare agli italiani cosa succedeva lì, certo. Veramente c'è arrivato, veramente. C'è riuscito. Sì, certo. Riuscito, e forse è anche proprio il regalo più bello che ci ha lasciato, almeno per noi, riuscire a veramente a sapere attraverso di lui, a vivere quella lotta attraverso le sue parole. È stato veramente un regalo, un'eredità incredibile per noi. Penso di parlare a nome di tutti. Spero che non finisca qui, perché se no lo mettiamo su un altarino non finisce qui. Lui bravo perché ha fatto sta cosa, noi no, e vabbè, sempre lui, no? No. No, assolutamente, non credo che questo sia nell'intenzione, né nell'idea di tutti noi, anzi, credo che l'intenzione sia quella che hai manifestato te fino dal primo momento, e cioè di rilanciare la sua lotta il più forte possibile per quello che possiamo fare noi, cioè nel senso, anche proprio i tuoi primi discorsi, insomma, l'abbiamo sentiti tutti, veramente il rilancio immediato sulla lotta del Rojava e sulla lotta di tutte le altre persone nelle stesse condizioni. Ecco, è quella la cosa importante che ci state lasciando, che ci sta lasciando, che ci sta arricchendo a tutti. Ed è una risposta del popolo, perché delle persone del popolo, perché in realtà le istituzioni, a parte un passaggio ecco, comune, col certo, sindaco, eccetera, ma poi Lorenzo è rimasto patrimonio del popolo. Certo, meno male, meno male, devo dire. Ma definisce bene i campi, capito? Certo. Definisce bene gli schieramenti, definisce bene chi è che può, che partecipa a queste lotte e chi in realtà pensa altro, capito? Certo. E si interessa di altro. O le strumentalizza addirittura quando gli serve. Appunto, insomma, certo. E io, questo sta passando, certo, credo e spero che passerà sempre di più, ecco, noi insomma, per tutti noi veramente il nostro impegno è questo, tutti, insomma, sì, che non rimanga, certo, un ricordo, certo, ma che rimanga un esempio continuo di come sì. Che la sua vita sia un sasso gettato nell'acqua che manda le onde che pian pianino toccano sempre più lontano i cuori e le menti delle persone, no? Io, certo, spero che veramente ce la faccia. Grazie mille, veramente. Prego, davvero. Grazie a voi di parlare. Ciao. Grazie mille per tutto e un abbraccio davvero sentito. Ciao. Nulla? Va bene, va facciamo bene, che stacchiamo la telefonata. Mamma mia, va bene. Sì, scusate, su Radio Wombat in generale. Forse non c'entra nulla, anzi scusate il paragone, magari non c'entra nulla, però ora parlavo con il... insomma, sentivo la voce del Babbo di Orso così, mi è venuto in mente subito Adi Giuliani. Forse non è uguale, ovviamente, non voglio fare un paragone, le situazioni sono diverse, no, però quando parli con un genitore... E spesso mi è successo, poi negli anni ho l'esperienza con Heidi, quindi mi è capitato di parlarci spesso e è buffo perché hanno questa forza veramente che non so come, davvero non mi spiego, cioè non lo so, forse paradossalmente forse gliela danno loro con questo, cioè come dire, no, veramente a volte sì, mi ha ricordato Heidi, ma non perché le situazioni siano uguali, non voglio fare un paragone, però no, comunque davvero perché rilancia immediatamente, cioè perché è stato sul pezzo fin dall'inizio, non lo so cosa si può dire, cioè, no, perché davvero hanno questa forza di cioè veramente e forse la trovano anche in quello, cioè, no, di cercare nel delirio di un lutto, nel dolore di una perdita, di trovare però, no, quello che, come dire, di dare un senso, sapendo che i figli lo hanno trovato, lo hanno avuto, cioè lo hanno voluto in queste lotte, certo, e si sono sacrificati sapendo, bene o male, non che gli poteva succedere, ma comunque che il rischio insomma ci poteva essere, e affrontandolo, e questo forse, non lo so, forse è la cosa a cui si aggrappano ed è una forza. Per me, io sono sempre rimasta davvero... Son cose che aprono colpita, solchi emotivi, come si diceva, sì, prima. Cioè, sono proprio cose che rimangono, ecco. Purtroppo a questo mondo, cioè, e meno male, non lo so, in una qualche maniera, quando qualcuno muore, le persone intorno a lui, che siano intorno per condivisione di determinati ideali o per condivisione di lotte o per condivisione di vita, proprio perché si conosce, ecco, tendono a parlarne molto, ecco, è naturale, no? Sì, quello che questi... mi sembra che se ne stia parlando bene negli ambienti in cui se ne sta parlando, e che il padre di Lorenzo abbia iniziato per primo a fare, sì, a cercare di non, di, appunto, come ha detto lui, proprio questa cosa che gli preme e che era la cosa che dice poi sempre anche, appunto, la mamma di Carlo, a non far diventare questa figura un martire in un senso o in un altro, ma invece che serva a spronare poi, no? Come dire, a spronare, certo, a aprire un dibattito, magari anche per forza non... cioè, no? Anche per forza... Ma ce l'ha proprio detto, no? ha citato la parola eroe a un certo punto, sì, cioè ha detto proprio Lorenzo non è un eroe o una cosa del genere, cioè non facciamolo diventare solo un eroe, perché insomma il gesto suo... lo si può definire anche eroico, non è che fuori luogo dire eroe, però finché le persone rimangono eroi, ecco, stanno in quell'Olimpo e noi siamo piccini così, sì, non dico che noi non lo siamo piccini, aspetta te la finisco, che non dico che noi non lo siamo piccini così, però dobbiamo cercare sempre di umanizzare gli eroi, perché di farli scendere, di avvicinarsi a loro, perché soltanto così si può davvero continuare le loro lotte, davvero capire perché le hanno intraprese e anche tutte le sottotrame, tutte le sotto tutte le altre considerazioni che si possono fare anche ai margini della lotta, perché la lotta di Lorenzo in Rojava è la lotta del mondo, lui lo dice tantissime volte in tutti quanti i suoi scritti, ed è chiaro a tutti quanti i compagni che è una lotta comune di tutti, la lotta per la libertà, c'è scritto proprio anche nella chiamata di oggi della manifestazione per Orso Tekocher e per chi lotta per la libertà. È importante che sia fatto questo passaggio, ecco, che Orso sia considerato certo un grande, ma uno di quelli che lottano per la libertà, e quindi chiaro, tutti quelli che lottano per la libertà di già devono cominciare a lottare ancora più forte, quelli che non ci hanno mai lottato, ecco, che si facciano venire ora un po' di sensi di colpa e che comincino a lottare, non lo so, poi... No, è giustissimo, credo che la figura dell'eroe del Martine sia molto limitante, poi sia molto appunto, come diceva il padre, qualcosa che ti metti sull'altarino, no? Lasci lì, sì, non ci pensi più e poi portare martire una volta l'anno, no, per dire, martire insomma, proprio come termine, no? Noi lo leghiamo molto al cattolicesimo, comunque, no, ai martiri, è stato usato, perché viene usato a volte, però martire per certo, no, martire in realtà, cioè, per me ci può stare come termine, per dire che è una persona che comunque sia si è sacrificata per una causa molto più grande di lui e molto più importante, riconosciuta da lui, molto più importante della sua vita stessa, per lui, cioè, e quindi è per quello che è un martire, ecco, che lo si può anche dire. Io credo, però, che appunto, non sull'altarino, ecco, questo è quello che ci stava dicendo. E poi è funzionale, cioè, appunto, no? Cioè, non è che uno, né queste persone che si sono sacrificate così, anzi, credo, almeno ho la presunzione di conoscerli bene tutti, però chiunque lotta e poi, no, appunto, rimane vittima in un certo senso di questa lotta, in realtà, proprio perché l'ha intrapresa così, credo che non volesse assolutamente né essere visto così, cioè quanto di più lontano, probabilmente, anche senza conoscere personalmente i compagni che sono, tra virgolette, caduti lungo la strada. Certo. Non credo che appunto che essere visti come eroi fosse né il loro, insomma, né il loro fine, né assolutamente appunto il loro scopo, anzi. No, però certamente. Però questo è un po' il rischio della è un po' la retorica che accade sempre quando poi, no, scompare qualcuno in questa maniera. È successo per tanti altri compagni, purtroppo, lungo la strada. E secondo me, come dicevo prima, era questo, e volevo dire, forse non mi sono spiegata, però volevo dire che spesso appunto le famiglie di queste persone sono state molto brave a rifiutare appunto questo, no, questo ruolo, e, certo, e invece a portare avanti un ricordo di queste persone che sia vivo, perché vive nell'esperienza di altri. Certo. E quindi in questo mi ha ricordato appunto l'esperienza di... Abbiamo ancora una telefonata, sentiamo un po'. Ciao. Ciao, sono in diretta, immagino. Sì, sei già in diretta, diretto. Ormai. Telefoni troppo, allora, non ti possiamo rispondere. In realtà abbiamo una linea diretta al tuo telefono, anche se te non lo senti. Praticamente, sì. Siamo noi e siamo in diretta da te, in realtà. Benissimo. Bene. Dici, allora, vai. Prima mi ero scordato di dire che per tutte le bandiere ci sono anche quelle dei sindacati, abbiamo visto la bandiera USB, ci sono Cobas, e nello specifico vi faccio un compagno di Cobas. Vai. Ciao a tutti. Ciao, sono Flavio. Allora, ciao, Flavio. Noi abbiamo deciso in realtà come Cobas di partecipare senza bandiere. Ah, okay. Però abbiamo dato la nostra adesione, portiamo avanti poi con la nostra associazione Azimut dei progetti nel Rojava, nel Kurdistan. Così come abbiamo appunto, sosteniamo già da tempo la lotta del popolo curdo, perché ci sembra molto interessante il progetto di democrazia diretta, di confederalismo democratico che viene portato avanti in quella regione del Medio Oriente. Certo. Quindi, pronto? Sì, ci siamo. Beh, io altro da aggiungere non ho, è stato un momento bello, intenso. Ora ha parlato anche del babbo di Osso, certo. E c'è stata una partecipazione anche da molte persone fuori da Firenze. Ho visto anche gente che viene da varie parti d'Europa. E quindi penso, appunto, certo, come tutti noi che siamo qua, anche come Cobas, che è importante sostenere questa esperienza nella Siria del nord, del nord-ovest, perché è un'esperienza che ci arricchisce tutti noi e può essere anche un modello di riferimento ora che si vive in un momento di spaesamento, no? Certo. Di incertezza. Può essere comunque un esempio e comunque un esempio da comunque sia da studiare, da condividere, sono cose nuove, dobbiamo solidarizzare. Certo. Bene, ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo. Vai. Grazie ancora. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Grazie. C'è uno staccato? No, indovina chi c'è secondo te. Pronto? Eccolo. Oi. Eccomi. Senti, ma noi si andrebbe anche quasi verso la conclusione, essendo il corteo arrivato. C'ha ancora senso? Sì, allora il corteo è arrivato e guarda, i camion sono riusciti a farlo entrare in piazza, quindi ci sono gli interventi, è intervenuto ora il padre, sì. C'è stato un intervento del CPA, dei compagni, addirittura un compagno inglese che ha combattuto con Orso, e quindi questo è quanto, se immagino che voi abbiate una gran voglia di raggiungerci qua, appunto, io non lo impedirò di certo. Senti, facciamo una cosa, registriamo un pochino di contributi appena puoi, o così te lo diciamo in diretta, se puoi registrare un po' di interventi o cose così, va bene, e direi ci avviamo verso la conclusione della diretta del corteo e veniamo e poi lì da aggiungiamo, voi possiamo bene. Aggiungere non so se ritenete che io ho una mezza parola con il compagno che è stato in Siria turinese. Ah, sì, beh, certo, quindi, certo. Ce l'hai. No, se ce l'hai lì vogliamo aspettare un intervento, lo devo ricercare nella folla, però eravamo rimasti se ne provi, sì, certo, intervenuto. Chiaro. Mi date qualche minuto? Certo. Va bene, passiamo un pezzo, passiamo un pezzo, ti diamo quei minuti per cercarlo, bene. Se non lo troviamo, bene. Fagli pure un'intervista, la passeremo in Wombat nei prossimi bene. Periodi, ok? Bene, grazie mille. Vai, noi si fa due chiacchiere e si manda ciao. Un pezzo, grazie Brico. Bene, ciao. Bene. Allora, eccoci. Mi funziona. Boh. Eccoci qua, sì, sì, te funzioni, okay. Funziona tutto. È che non hai le cuffie. Me lo sento dire quasi male. Bene, che dire. Insomma, è stato sicuramente, no? È ce lo ricorderemo, mettiamola così, dai. La giornata sicuramente mi ha colpito questa cosa che è stata detta di persone che sono tornate in piazza dopo tanto tempo. È vero, io certo. Ho visto dei volti di chi... A volte no, davvero deve succedere qualcosa che scuote per riavvicinare, anche perché no, giustamente chi magari per vari motivi si distanzia un po' da certi percorsi. E è bello vedere che, no, come dire, a volte anche da una perdita, da una tragedia, perché per me questo è comunque perdere un compagno, e possa, che ne so, almeno una cosa positiva possa... no? Possa unire, possa riportare diciamo in un certo senso, risvegliare, no? certi magari percorsi che erano un po' sopiti, che erano un po'... L'importante è, sì, appunto, come diceva anche il padre, che non, insomma, che non resti una cosa episodica, sì, no? Sì. Che uno celebra una volta, o che non resti lassù e che, ecco, insomma, sì, tutti quanti a guardare con sì, esatto, con ammirazione il gesto di Orso, ma poi a non fare un cavolo nulla, ecco. Sì, che poi non, appunto, non, cioè, non vuol dire niente poi anche no. Questa frase qua, però però no, io, è chiarissimo. Lui ci dice che è tutta la stessa lotta, che siamo tutti, sì, siamo che poi tutti ognuno, chiamati. Io credo anche che sia davvero ognuno nel suo modo, cioè, appunto, non c'è bisogno di imbracciare un fucile, andare in un luogo, certo, se uno lo fa, massimo rispetto, certo. E tutta la vita solidarietà, e perché no, a momenti uno se la sente, a momenti invece si sente di fare altro, di contribuire, però l'importante è magari non uscire mai dallo stato, no? Dallo stato mentale per cui, certo, ecco, vivere la propria vita cercando di, come dire, troppo gramsciano essere partigiani, sì. Va bene, troverò un'altra citazione. Ce lo disse Alessandro, il padre di Lorenzo, al primo appuntamento, insomma, dopo, certo, la morte di Orso. E lui ci disse che un invito che ci fece era cercare la radicalità nelle piccole scelte, nella quotidianità, l'essere radicali, ci disse questo termine qua. Sì, sì. Perché, e citò anche alcuni esempi di vita quotidiana in cui Lorenzo lo aiutava sempre a guardare al di là, non mi ricordo cosa citò, mi pare la raccolta differenziata, cioè che lui da padre diceva: ah, facciamo una raccolta differenziata, buttiamo questo di qui, questo di là, cioè, facciamo per bene a differenziare. E Lorenzo dall'altra parte diceva: sì, ma se non ragionano di questo a livello di grandi produzioni, certo, e non si inizia a produrre in modo da poi dopo sprecare, si può differenziare quanto ci pare e non si va da nessuna parte. Cioè, era questo l'esempio che aveva fatto lui, me lo ricordo bene così. Però è un esempino che poi lo puoi estendere un po' a tutto, no? Cioè, il cercare sempre di dubitare, no? da bravo anarchico come era, quale Lorenzo era, no? Nel senso, il dubbio, si va mai passo le cose passo, per cui sono date, ma cercare dubita. Sempre di guardare oltre, anche quando sembra una forzatura, anche quando sembra un'esagerazione, no? Certo. Che quando gli altri ti dicono che perché ti fa sempre tutte queste domande, no? Perché appunto, ma cos'è, certo, che ti spinge sempre? E secondo me è un po' l'essenza poi, no? Di chi sceglie di farsi domande continuamente, che non fa vivere bene, ovviamente, non, sì, fa vivere, cioè, poi fa vivere meglio in realtà, secondo me, sulla lunga distanza, però lì per lì sembra quasi un mettere in discussione sempre continuamente tutto, ma perché, certo, ma che te lo fa però fare? Però comunque, no? Mettere in discussione sempre tutto, queste domande una dietro quell'altra, questo andare passo passo e ragionare, al nostro compagno l'hanno portato, esatto, per lui, a morire, per quanto lui dice, con il sorriso sulle labbra, cioè, e quindi tutto ciò è anche una storia bellissima, mi viene da dire in un certo senso, certo, è un percorso, lo è e noi dobbiamo soltanto farci contagiare, dobbiamo soltanto, certo, sfruttare queste emozioni che questo compagno ci ha dato e anche queste considerazioni che ha fatto e anche questi scritti che ci ha lasciato, che davvero, insomma, peccato che ha scritto per così poco, perché ne leggerei tante di cose di Orso, sì, volentieri, ecco. Io coglierei l'occasione poi appunto per ricordare tutti i miei compagni che come lui sono caduti nel percorso e più o meno in maniera, come dire, no, celebrata più o meno negli anni, e tutti quelli che adesso continuano che si trovano in situazioni in cui appunto devono fronteggiare appunto la repressione, la galera, e quindi insomma la vita spezzata in un certo senso dalla, certo, legge che invece, no, li reprime e gli chiede di essere uniformi, quando invece tutto quello che volevano era appunto farsi delle domande, mettere in discussione, cambiare, sì, esatto, in realtà le cose, che è il crimine più grande probabilmente. Sì, cioè alla fine la puoi ridurre tutto a questo, cioè Orso si faceva tante domande, quindi probabilmente, cioè nel senso, riducendo, declinando, si può arrivare a dire un po' tutto a partire, certo, da questo argomento qua. E purché sia per noi di ispirazione, e purché, ecco, le nostre lotte non siano lotte proprio che partono a prescindere come sbagliate, purché non siamo razzisti, fascisti o cose del genere, se siamo persone buone che guardano all'altro, ecco, possiamo soltanto cogliere l'occasione come un trampolino e saltare. Certo, ognuno declinandola, ecco, nella maniera che più... Nel suo contesto, cercando di cambiare nelle pratiche quotidiane prima di tutto, e questo ci ha invitato a fare questo Orso per primo, e suo padre immediatamente dopo la sua morte ci ha chiesto, certo, proprio questo, quindi più che altro di farsi avanti e di prendersi la responsabilità anche, certo, di certe idee, no? Di certe, certo, idee. Quello al di là, lui l'ha fatto nel suo modo, nel suo percorso, si può fare in mille modi, però va fatto. Lui ha preso il cuore in mano, l'importante è fare questo, cioè prendere il cuore in mano e andare a combattere la nostra lotta, ecco, e a vivere la nostra vita. Non lo so, poi si potrebbe filosofeggiare fino a domani, ma è meglio se chiudiamo. Forse sì, perché chiudiamola qua. No, cioè, è giustissimo, è chiaro, sono argomenti talmente vasti. È stato bello poter sentire il padre, insomma, io... È stato bello poter sentire tutti. Sì, però ovviamente non sarà bello tra 5 minuti quando raggiungeremo per l'appunto. Bene, non siamo così facili. Si prova a vedere se lui ci fa sentire quest'ultimo intervento. O a questo punto no, direi se ce l'ha data del tempo, non lo sentiamo. Allora, quindi liberi salutiamo e diciamo che nei prossimi giorni comunque pubblicheremo altri contenuti, altri, insomma, ci sarà occasione anche nel nostro grande palinsesto Wombat di riparlare dell'argomento, anche perché insomma in queste settimane siamo tutti solcati da questa da questo fatto, e quindi rimanete... anche in tutte le assemblee della città, anche in tutte le situazioni collettive che abbiamo vissuto in questi giorni, Orso è tornato sempre fuori, quindi non abbiate paura, ritornerà fuori continuamente per tutti i vari aggiornamenti e poi caricheremo poi anche altri, appunto, se ci riesce, anche, certo, altri interventi. Vi rimandiamo sempre al nostro sito e anche ai vari social del, certo, del Wombat. E niente, cosa dire se non andiamo da Orso e ringraziamo tutti quelli che c'erano in piazza, prima di tutto tutti quelli che ci sono stati al di là di questi, di questo computer, di questi microfoni a sentirci, e niente, è tutto per questa diretta, per grazie oggi, per tutti, questa volta, grazie a tutti, ciao, ciao, e buona domenica. Della diretta, immagino. C'è il drago della